nottambulo, un solo ritmo, un canto della comune solitudine che noi mettemmo insieme a starci un poco accanto su questa via dell'abitudine. Il tempo vince sempre, il tempo lui soltanto si muove e noi restiamo immobili finché ci porta un suono atteso chissà quanto. E ci promettiamo indivisibili, alberi che sfilano come persone care, fantasmi della strada, devi prendere o lasciare, sì comunque vada, non come volevi. Battono i tamburi, battono più lontani, è giusto così, non chiesi mai qualcuno che comprasse la mia infelicità, tam tam tam tam tam tam. Non piansi mai davanti alla tristezza, ma verso l'onestà, tam tam tam tam tam tam. Dimmelo anche tu, che il tempo non ci ha sconosciuto male, bene mio, che dopo ti hanno amato meglio. Non di più, di tutto il poco che ho potuto io. Vieni padre mio, usciamo a fare un giro e guida tu e guarda avanti. Parliamo più, albero padre, con un ramo solo, e come tutto torna, e come tutto passa, le cose cambiano per vivere, vivono per cambiare, il mare s'alza e abbassa, e mai una goccia si va a perdere, ed ogni giorno siamo dietro ad una cassa, a dare il resto e poi sorridere, un ballo senza fiato se la banda passa. E finché non smetti di rincorrere, le storie muoiono quando c'è più paura di perdersi che voglia di tenersi, come dura quella soglia e come siamo noi diversi. Cambiano le scene, cambiano le battute, e anche battuti io non potrò incontrarvi in nessun luogo, in nessun'altra età. Tam tam tam tam tam tam. Ferma l'urgenza del mio cuore, il cuore di un uomo a metà. Tam tam tam tam tam tam. Pensa amore mio, che ti insegnai mille altri cieli, e non seppi mai soffiarti vento sulle ali. Aspettai un addio e un giorno di lasciarmi ti lascia. Io so, piccolo figlio, e tuo compagno dalle orecchie a punta, io ti parlai di me come a un fratello a cui ci si racconta. Io non ne avevo allora presi te, quella tua sgomenta e nostra madre. Amica mia,